Zio Parenzo, sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora votami e vedrai chi trova un posto di lavoro. Votami e vedrai che non ti farai male. Votami e vedrai che domani ti vorrò bene. Figliolo, una volta qui era tutta campagna elettorale. Puoi fare il cantante, ti servirà una spinta. Puoi fare l'assessore, ti servirà una spinta. Puoi fare carriera, ti servirà una spinta. Sull'orlo di un burrone avrà bisogno di una spinta. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Allora, noi stiamo qui a menarcela sull'Europa, su come deve cambiare l'Italia, eccetera, eccetera. Poi succedono delle cose molto piccole, magari, molto piccole, ma estremamente significative, estremamente significative. Allora, succede, partiamo da questa piccolissima storia, da questa storia minuscola, ma importante, fondamentale per capire che siamo un paese, qualche volta verrebbe da definirlo un paese di merda che non cambierà mai, mai, mai. Chi c'è? Parenzo? È in linea, Parenzo? C'è? Non c'è. Sì, che è linea. Ci sei, benissimo. Allora, l'esempio è questo. L'altro giorno ho letto su un giornale, credo fosse Repubblica, una notizia che viene da Pescara, dove comune di Pescara, una grossa città del centro Italia, importante, no? Comune di Pescara, è stata nominata assessore una ragazza di 19 anni. Uno potrebbe dire, beh, una grande svolta, una ragazza giovane, una ragazza, no? Nuove leve, eccetera, eccetera. Però tu la conosci questa storia perché te l'ho raccontata in questi giorni a Strasburgo, te l'ho raccontata, sì, e mi sono indignato. Ho anche gli occhi per leggerla, diciamo. No, no, ma per non l'avevi letta, te l'ho raccontata, ma non c'è niente di male, non è una critica. Ma non è una critica, non è un problema, non è un problema. Allora, la questione è molto semplice. Sei un personaggio. No, ma un sindaco che si chiama Alessandrini, figlio di Alessandrini, quello ammazzato dalle brigate. Figlio del giudice Alessandrini. Vabbè, non c'è bisogno adesso di dilungarsi su questo. Ha nominato assessore una ragazza di 19 anni non perché è brava, non perché è un fenomeno, non perché ci fa un mazzo così a tutti, perché è super laureata, eccetera, eccetera. L'ha nominata per due motivi. Primo, per le quote rosa, maledette, stramaledette siano le quote rosa. Numero due, perché per il manuale Cencelli, perché in realtà c'è un piccolo partito che ha preso il 5%, la lista Teodoro, fatta tutta dalla famiglia Teodoro, perché questa ragazza si chiama Teodoro, Veronica Teodoro, il padre si chiama Gianni Teodoro, doveva diventare assessore lui, solo che per vari problemi, tra cui anche quello delle quote rosa, lui a un certo punto ha detto, vabbè figlia mia, fallo tu l'assessore, lo vuoi fare? Questa a 19 anni, studentessa di 19 anni, diventa assessore al patrimonio di Pescara. Assessore al patrimonio! Al patrimonio! E dice che non sa un cazzo del patrimonio, non lo conosce nemmeno, non sa quanti beni possiede il comune di Pescara. Ma vi rendete conto o no? Dell'Italia. L'Italia. L'Italia. Sentiamo una frase di questa ragazza che è stata intervistata, in cui dice, mio padre, se io sono io, mio padre è mio padre. Ma che cazzo dici? Tu sei tu. Tu sei tu, assessore, perché l'ha detto tuo padre, perché te l'ha chiesto e l'ha imposto tuo padre. Gli attacchi che hai ricevuto sono dovuti più che altro al fatto che sei figlia di Teodoro oppure per la tua giovane età, secondo te? No, penso per il fatto che sono figlia di, anche se non penso sia un buon motivo per attaccarmi, perché io sono io, Gianni Teodoro e Gianni Teodoro, siamo due persone distinte e... Vi rendete conto o no? Vi rendete conto? Dimissioni subito, bisogna fare una campagna per far dimettere questa ragazza da assessore al patrimonio di Pescara, subito, immediatamente, sì, vabbè, dimissioni, subito. Anche il comune di Pescara, l'opposizione del comune. Ma non lo so, Pescara, non mi interessa, l'Italia è anche questa, no, cari amici, no, come no, e soprattutto, vero, anche e soprattutto questo. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Renzi ieri a Porta a Porta dice di inorridisco davanti ai bambini morti. Inorridisco. Beh, adesso, caro Renzi, noi però, per carità, va tutto bene, uno deve fare anche scena, porta a porta, eccetera, deve anche dire che inorridisce, però vogliamo, come dire, dare un segnale? Vogliamo fare qualcosa? Non è che si può dire l'Europa ci deve aiutare, non ci aiuta e basta. Diamo un segnale, no? Non è che uno dice inorridisco davanti ai bambini. Tutti inorridiamo davanti ai bambini. Persino io vedo i bambini morti, uno inorridisce. È evidente, no? Inorridisco davanti ai bambini morti, vabbè. In questa logica noi che cosa stiamo facendo? Primo, cerchiamo di salvare quante più persone possibile. A me potranno non votarmi la prossima volta, ma io inorridisco a pensare che quello che è accaduto anche oggi, una nave di bambini, io lo lascio andare. Lascio andare a morire 50-60 bambini. Quindi Mare Nostrum continuerà. Mare Nostrum continua. Se tu tratti piano guardi il mare, morente che si schiava tra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, è un tricolore svelto per te, accetta nera, bella piscina. Oh, caro Parenzo, prima di mettere queste canzoni che mi fanno vomitare, cosa? Mi fanno venire la pelle. Aspetta, che abbiamo già un ospite, fermo lì. Ma ha ragione però Renzi quando ha detto, torneremo su quella cosa, che ha detto una cosa vera e giusta. Vabbè, d'accordo. Sì, però il nostro primo obiettivo è salvare delle vite umane. Vabbè, d'accordo, che originale. E cosa avrebbe dovuto dire? E sentiamo. Allora, bisogna risolverla questa questione, risolvere questa, no, dare delle cose concrete. Vabbè. Premier Cruciani. Allora, perché ho messo, stai zitto un attimo, perché ho messo, vabbè, l'hai già detta questa cosa, adesso stai zitto un attimo, perché ho detto, perché ho messo faccetta nera? Ho messo faccetta nera per un motivo molto semplice, perché la signora Mussolini ha ritirato fuori la storia di Vespa, figlio di Mussolini. Sentiamola alla Zanzara, lui ha replicato. Questa famosa storia di Vespa, figlio di... È un po' simile. Ma secondo lei qui, è vera la cosa? È qui, è dal naso. Quindi siete parenti? Piega naso labiale. Secondo me è un figlio sfuggito. Però dato che io ho fatto la legge sui figli naturali, l'abbiamo messo in regola pure a lui. No, ma lei ha fatto delle ricerche, sì, un po' di ricerche l'ha fatto. Ma non faccio ricerche, basta il DNA, si vede in faccia. Si vede in faccia. Replica di Vespa, poi con noi super ospite. A proposito di nonno e di fascismo, sei contento che l'Alessandra Mussolini ti chiama zio? E continua a insistere. Alessandra gli ha pigliato sta cosa, non ha trovato ancora un bravo specialista che la guarisca da questa sindrome, è una cosa molto molto preoccupante. Che ogni tanto lei ritorna. Tra l'altro io la prendo abbastanza a sorridere, ma mio fratello giustamente si imbufalisce, certo. Insomma, bene o male, insomma. Vittorio Sgarbi è con noi, Vittorio? Eccolo! Eccoci qui, ma sta storia di Vespa, Mussolini, eccetera, secondo te è vero? Guarda, una cosa che attesta la verisimiglianza di questo pettegolezzo, sì, osserverai, è il nome di Vespa. Qual era il nome del fratello di Mussolini? Sì, Bruno, sì. Bruno, forse è questo che... C'è l'idea che la madre, sì. D'altra parte è venuto fuori adesso nel paese di Yara, che la madre è presunto assassino, non è, sì, aveva fatto letto con un altro. Cioè, il problema è la difesa dell'onore delle madri, quindi questa difesa l'onore di sua madre. Ma messo che anche all'epoca le donne potessero fare il corno che facevano in maniera più segreta, dovevano essere perlomeno innamorate, perlomeno di una figura mitologica come era all'epoca il Mussolini, e quindi in qualche modo ricordarlo attraverso il nome, e la scelta del nome di Bruno che sembrerebbe essere un prezzo. Cioè, secondo te non è inverosimile questa cosa qua? Non è inverosimile, e questa cosa è un indizio a favore della Mussolini, la quale poi parla, come dire, in corpore vili, perché si chiama Mussolini, quindi qualche cosa... Però c'è una cosa che dice Vespa, dice mia madre andò nel Gran Sasso solamente nel 49, insomma, secondo Vespa le cose non coinciderebbero le date, insomma, no? Che lui si difenda è giusto, e che dica la sua verità è giusto. Dico io, ad ombra così di questo nome, è il nome che ti fa riflettere, è il nome che ti fa che la faccia potrebbe essere che la madre abbia voluto in qualche modo ricordare qualcosa del padre reale attraverso il tu nome stai dicendo addirittura la mamma come quella di Yara, come quella del caso Yara, diciamo, come la signora Guarinoni, come si chiama? Questo perché evidentemente esistono questi casi, quindi nulla questo, però all'epoca non c'era una scopata per la scopata. Se una scopata con Mussolini, se lo faceva non perché era una puttana, ne potrebbe essere la madre di, ma per una specie di dazione di sé alla parte. Aspetta, aspetta che ti richiamiamo, Vittorio, perché non si sente una mazza. Aspetta che ti richiamiamo, aspetta, aspetta. Well now, little mosquito, there must be some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm naked. Oh, tra l'altro Bitonci, torniamo sulla polemica di Padova, Parenzo. Bitonci dice che Toscani ha cercato il comune per trovare una soluzione. Cioè Toscani, che ha detto subumano, eccetera eccetera, pare che abbia cercato una, stia cercando una soluzione, no, per... Sì, sì, ti giuro, lo racconta Bitonci, Ah, no, vabbè, bisogna credergli per forza, certo. Fa un po' sorridere il fatto che sembra che Toscani abbia contattato qualcuno della nostra amministrazione per trovare una soluzione per fare servizi fotografici alla giunta o mostre. Noi a Padova mostre di Toscani non ne vogliamo, prima chieda scusa, dopo vediamo. I'm nature's mosquito. That means I better go bite, bite, bitey, whitey, white, sir. Yes, sir. I'm nature's mosquito. I gotta go bite, bite, a bitey, whitey, white, sir. That's what they even Toscani si vuol fare solo pubblicità. Una querela a Oliviero Toscani. Sì, questo è più una gossipata che un argomento di, perché insomma siamo proprio a un livello, diciamo, molto basso con le dichiarazioni fatte da, da Toscani, che penso che abbia interesse solo a farsi pubblicità più che a fare una critica costruttiva. Vittorio, ci sei? Sì, sì, ci sono. Eccoci. Vabbè, insomma, chiudiamo. Da Mussolini a Toscani, no? Sì, no, siamo passati a Toscani, che ha definito subumano il sindaco di Padova, Bitonci, no? Ma non è vero, perché questo sindaco di Padova, che antropologicamente non è certo più rozzo di Zanonato, che piaceva poco anche alla sua sinistra, è diventato ministro in quota Bersani, eccetera, era il sindaco di Cittadella. Io ho fatto con lui le celebrazioni di Mantegna, che è nato vicino a Cittadella, una persona anche colta, certo, essendo un leghista, tenterà di dare radici a un'ideologia che appare un po' scollegata dal tempo. C'è questa storia del crocefisso, dici te, questa roba qua del crocefisso. Se c'è un luogo dove esiste ancora una pietà che ha un fondamento cristiano cattolico, è il Veneto. C'è poco lontano da Padova, Steriese, dove è nato Pio X. Cioè, sì. Insomma, ma secondo te allora perché Toscani se ne esce in questo modo, dicendo che quello è un subumano? Non ha il senso, non ha il senso dell'antropologia reale. Cioè Padova è bene o male il luogo di Sant'Antonio, è una città santa. Allora, se noi legittimiamo il rispetto dei musulmani e di tutti quelli che hanno la loro religione, non si capisce perché la nostra, che pure può essere superstizione, perché come lui sarà ateo ed è forse legittimo esserlo, la religione fa parte della cultura e della civiltà, per cui noi quando lui va a vedere la cappella di Scrovegna a Padova, cosa vede? Qualcosa che deriva dalla civiltà cristiana. Ma io non ho capito, allora queste uscite di cosa? No, sono solo... diceva che sono subumani, no, lui diceva che sono subumani, no, ma sono subumani, no, anche quelli che votano i Bitonci. I provvedimenti sono vabbè, ma che è fuori di testa Toscani, no, perché dice così, è fuori di testa? È un provvedimento poco significativo, però se lui vuol dotare le scuole del crocifisso, dico sempre, sarebbe una soluzione, lo diceva la Germini, che forse non capiva, se tu in una classe mandi Cristo morto di Mantegna, voglio vedere chi osa toglierlo, perché toglieresti un valore simbolico che non è quello religioso, è quello dell'arte. Se io mando in una classe, ho la faccia di Scalfaro e tolgo il Cristo di Michelangelo, ma siamo impazziti. Se io immagino il Cristo giudice di Michelangelo, che è perfetta, se la prendo dall'arte, vuol dire che cosa toglierla. Ma il problema è che invece di mandare quei crocifissetti fatti in Val Gardena, si manda la riproduzione del Cristo morto di Mantegna. Fermi tutti. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. E ancora a casa, Evo. Oh, c'è Maretta in Forza Italia, caro David. C'è un casino in Forza Italia perché l'incontro Renzi-Berlusconi, questo accordo che Maretta? Tiene. Non ho capito dove hai detto. Dentro Forza Italia c'è un grande casino perché molti addirittura parlano di resa. Ma cos'è Forza Italia? Vabbè, Forza Italia, non fare il coglione, esiste ancora Forza Italia, non so per quanto, ma ancora esiste. Pare che ci sia, sì, ma ecco, vedi che anche tu. Però, ma sì, vabbè, è in crisi, ma questo non, cioè, non è che ci vogliono le tue battute per scoprirlo. È in crisi Forza Italia, molti parlano addirittura di resa nei confronti di Renzi. Siamo diventati una costola di Renzi perché Berlusconi accetterebbe questa riforma del Senato che non vuole nessuno. Poi Pier Silvio Berlusconi, vogliamo sentire Pier Silvio Berlusconi? Pier Silvio Berlusconi su Renzi, finalmente abbiamo anche l'audio in cui praticamente il figlio di quello che in teoria dovrebbe essere il capo dell'opposizione parla bene di Renzi. Come italiano e anche come imprenditore tifo per le riforme subito. Quindi tifo anche per la fretta del governo. Renzi ha una chance unica e anche una grandissima responsabilità. Vittorio? Ecco. Hai sentito Pier Silvio che fa il tifo per Renzi? Sì, vabbè, ma questo è stato un personaggio abbastanza convenzionato che è Pier Silvio, quindi il pensiero di suo padre in modo un po'... Non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Allora, no, aspetta, ti sento male, Vittorio, ti sento malissimo, ti sento malissimo. Allora, dimmi una cosa, non ho capito, che pensi di questa cosa di Pier Silvio nei confronti di... Sì. No, penso che sia un ossequio al padre, una riproduzione del pensiero del padre, che è detto in modo più rozzo, perché bene o male Pier Silvio parla come uno che è lontano dalla politica e naturalmente vede Renzi come una cosa buona e giusta. Suo padre pensa stesso, ma deve difendere in qualche modo l'ipotesi bipolare, per cui lui un tempo era una cosa che non... Però scusa, dicono che sia una resa per salvare Mediaset, cioè per garantirsi media, per garantire... Guarda, il vero rischio di Mediaset dopo le motivazioni della condanna di Dell'Utri è il sequestro di tutto il capitale. Se qualche magistrato lo facesse, potrebbe pure essere che sequestrano tutto. Perché? Berlusconi. Perché? Però hai letto che lui proteggeva i suoi con i soldi dati alla mafia. Beh, se si sveglia uno come Di Matteo, può essere benissimo che gli sequestrino tutto. Così è finita per sempre. Tu dici il vero pericolo può essere qualche giudice zelante che seguendo le motivazioni per cui non basta neanche Renzi, quindi Renzi è il minimo. Però dico, il padre bene o male, anche se non capisce nulla e non ha più nessuna visione politica, deve fingere di averla. Il figlio è un imprenditore, quindi non si capisce perché dovrebbe preoccuparsi di dire una cosa a favore perché di Renzi. No, perché no, non si capisce perché dovrebbe essere contro il governo, dici tu, no? Cioè... Appunto, Renzi è anche meglio di suo padre. Suo padre lo pensa, il vero erede di Berlusconi è Renzi. Peccato che Renzi, essendo furbissimo, si sia messo dalla parte giusta, perché la destra è sporca e la sinistra è giusta. Chi sta a sinistra è pulito. Dunque sì, può fare qualsiasi cosa Renzi, diciamo. Può fare qualunque cosa, certo. Può fare qualunque... Senti un attimo, ma la questione del matrimonio omosessuale, ormai sono tutti favorevoli, sono diventati tutti favorevoli. Oggi... prima di arrivare a questo punto volevo chiudere la vicenda che l'intelligenza e la cultura servirebbero a dire che se vuoi fare la cosa che non piace a Toscani, mandi in tutte le scuole l'immagine di una parte di Cristo che viene dalla Cappella degli Scrovegni. E hai chiuso tutto, voglio vedere chi osa violare la Cappella degli Scrovegni, è un'immagine... Però lui dice, Toscani, che è un simbolo sadomaso il Cristo, il crocifisso. Sì, ma quando è arte, un crocifisso di Val Gardena è un'immagine significante dal punto di vista, ma un'immagine a te è un capolavoro, e quindi il capolavoro, che si mette a discutere i capolavori, che togli i capolavori dai muri, no, quello volevo dire. Garbe, ha ragione Vittorio, perché chi viola questo morto di Mantegna è l'asia napolitano, è un pazzo. Questo morto di Mantegna è un valore assoluto e napoletano è una faccina. Comunque non so perché... Questo per dire che volevo finire il discorso quando era caduta la linea. Invece, per la questione del matrimonio, oggi matrimonio, il matrimonio tanto non è obbligatorio. Io sono contro tutti i matrimoni, quindi anche quelli gay, che sono un modo per mimare la famiglia che non c'è più, o mimare il matrimonio eterosessuale, ma questi sono fatti loro. Se uno si vuole tagliare i coglioni da solo, lo faccia. D'altra parte c'è un problema che ponevo in termini di assistenza, diciamo, previdenziale. La pensione di reversibilità è il problema che pone la vedovanza. Se un professore di 60 anni sposa un ragazzo di 30, poi gli deve lasciare i soldi quando muore della pensione, quindi è una cosa abbastanza complicata se noi moltiplichiamo i matrimoni anche in questa direzione. Quanto cioè ci possiamo rimettere un sacco di soldi, guarda che è la stessa cosa che dice Alfano oggi. Io forse vado per la figlia motivatamente, dico, quindi io sono per dematrimonializzare l'umanità, se vuole tornare a essere singolo, se vogliono sposare lo facciano, è una forma di perversione del matrimonio di qualunque tipo. Oggi, per quello che riguarda l'adozione, per esempio, campeggia ovunque questa foto di questi due omosessuali canadesi che a petto nudo perché vogliono far sentire il contatto con la pelle, e si mettono in braccio questo figlio nato con l'utero in affitto. Che fanno esattamente come fanno Berlusconi e la Pascale con Dudu, cioè quel bambino è come un cagnolino. La cosa tragica è che queste adozioni, quando non sono legate a una necessità genetica, io sono padre di figli senza volerlo, ma mi sembrava giusto non far abortire le loro madri, ma sono nati perché io ho fatto un atto, se non faccio l'altro perché voglio un cagnolino che si chiama bambino per un mio capriccio, però la cosa mi fa schifo. Uno potrà dire c'è un elemento positivo che toglie alcuni orfani o alcuni ragazzi, e invece forse no, ma però scusa, soprattutto se è un'adozione che è legata al disagio di un figlio, può essere che la famiglia nuova gli porti pure vantaggio. Però tu dici fare la fecondazione assistita, l'utero in affitto, eccetera, è una è tutto una affrontata. Poi soprattutto, se tu garantisci a un figlio di avere come ogni figlio naturale una madre e un padre, puoi farlo benissimo con un'adozione che è una forma di altruismo. Ma se lo fai per il capriccio di due tutte, cioè di due che vogliono fare la mamma e il papà, quello è un vizio, è un capriccio, è un lusso da ricchi. Vizio, capriccio e lusso da ricchi, come bere lo champagne invece che un vino che costa poco. Ho capito, ma mettono al mondo. Fa orrore. Ho capito, Vittorio, ma mettono al mondo. Quei due è un cagnolino con due papà, che fanno papà e mamma. È un orrore. È un orrore, tu dici, è un orrore. No, è tipo perché la prova dei soldi, del lusso, se non è una famiglia che garantisce a un figlio di avere la madre e il padre avendo avuto difficoltà. Ho capito, ma c'è l'affetto, poi gli danno affetto, Vittorio, gli danno affetto. Ma non senta un cazzo, ma gli dai però due che fanno la finta di essere papà e mamma. Allora ci vogliono fare in culo, che va benissimo, si inculano tutta la vita. Ma non si capisco perché devono dare. Perché fare il per avere due papà? Se perché fosse orso avrebbe due papà in questo caso, invece di avere un papà e una mamma, sia pure perché no? Fermi tutti, oggi è cominciata così, con i telefoni che vanno e vengono, ma è la radio, amici miei. Non siete seri per niente. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Questo chi era che me lo sono scordato? Cioè il mitologico, com'è che si chiama, Isotta? Paolo Isotta, sì, Paolo Isotta, grandissimo. Sai perché mi piace, Giuseppe? Perché sei pazzo, un po' è vero. Allora voglio raccontare una cosa da pazzo, Parenzo, una cosa da malato di mente. Ieri a Strasburgo a un certo punto ho preso un taxi. No, non è una cosa strana prendere un taxi, no. Ma eravamo insieme ieri. No, ieri sera no. Prendo un taxi. Cosa hai fatto ieri sera? Non ti preoccupare, cosa ho fatto ieri sera. A un certo punto, che è successo? È successo. Quali porcherie hai fatto? No, ma stai a sentire che è una cosa incredibile. Questo tassista comincia a parlare in francese, parlo abbastanza bene, anche se evidentemente si capisce che non sono madrelingua, no? Cioè che sono straniero. A un certo punto questo qua mi guarda dallo specchietto retrovisore e mi senta, non è che per caso lei vuole andare a puttane? Così no. Mi ha detto, sì, ma non è che per caso lei vuole andare a puttane? Cioè andrebbe a prostituta in un bordello in Germania, sai che Strasburgo confina pochi chilometri con la Germania, c'è la cittadina di Kiel, sì, poi c'è Offenburg. Potremmo fare una puntata della Zanzara prossimamente. Bellissimo, allora questo bordello, e a un certo punto tira fuori dal cruscotto un biglietto da visita, di quelli un po' più grandi, di biglietti da visita normali, dove c'è questo bordello che si chiama Lancillotto si chiama, stupendo, meraviglioso, con tanto di indirizzo e tutto legale, amici miei, tutto legale in Germania. Dunque c'è questa migrazione dal confine francese anche da parte di funzionari, mi ha detto questo, e parlamentari europei, questo tassista, che praticamente da Strasburgo vanno a troie, a puttane, nei bordelli in Germania, in particolare a questo bordello che si chiama Lancillotto a Offenburg, capito? Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta ci cova lì. Beh sì, gatta ci cova assolutamente, caro Razzi. Lei è favorevole alla legalizzazione della prostituzione, allora voglio dirvi i prezzi di questo bordello, caro Parenzo, i prezzi di questo bordello. Questo bordello praticamente costa 50 euro l'entrata, capisci? capiscimi bene, stammi ad ascoltare. 50 euro l'entrata con buffet, mangi, eccetera. 50 euro l'entrata, poi paghi praticamente 60 euro per ogni ragazza, mezz'ora per una ragazza. Ci sono le foto sul sito. Si tratta di civiltà, sono cose di civiltà, di enorme civiltà, di grandissima civiltà. Tutto legale, lo Stato ci guadagna, le tasse, imprenditori che investono in questo settore. Vabbè, ma è per quello che ieri non sei venuto a cena con me. No, molto poi non sono andato perché è lontano, eccetera. Ma me lo puoi dire? Ma non me ne frega. No, non me ne frega. Siamo sempre in diretta, sì, siamo sempre in diretta. Però oltre a questo, vuoi sapere una cosa che ho visto? Mi hanno mandato un messaggino dell'ultimo minuto, ti pregherei di verificarlo, tu che hai gli strumenti per farlo. Sì, dimmi. Floris sarebbe beh, sì, certo, questa è l'altra, 7, ma assolutamente la notizia che è arrivata. 4 milioni di euro in 3 anni, è così, dico assolutamente, bene? Floris 4... alla 7 per 4 milioni di euro? Esatto, 4 milioni, confermo, 4 milioni di euro in 3 anni per produrre programmi di attualità, per condurre programmi di attualità. Programmi, vabbè, adesso non lascia perdere. Condurre programmi di attualità. Questa quindi lo confermi? Sì, ha lasciato la RAI dopo 20 anni, Giovanni Floris. Questa è una notizia, però. Assolutamente, infatti la, stiamo, la stavo per dire. No, perché tu giustamente hai aperto con i bordelli. Che ma non c'è apertura qui, ma non c'è apertura, qui non c'è apertura, chiusura, le solite banalità, apertura, chiusura. Questo è un caravanserraglio, si può parlare di qualsiasi cosa. Ancora non te ne sei reso conto dopo tanti anni. Avrei detto la notizia della sera. Quanti anni sono? Beh, tanti, troppi no, forse. Ricordo 4 anni. Allora, praticamente prenderà come Prandelli che è andato al Galatasaray. Esatto, cioè questa è la cosa. Esatto. Prandelli è andato al Galatasaray per 4,5 milioni di euro all'anno. No, beh, un po' di più Prandelli in realtà. E Giovanni Floris passa dalla Rai dopo 20 anni, va alla 7. Signor Urbano Cairo insieme al signor Caschetto, che è l'agente di Floris, hanno tramato in questi ultimi giorni, hanno fatto credere che era fatto l'accordo con la Rai. Forse è successo qualcosa, o forse è solo una questione di denari, no? Di denari. Perché sembrava fatta per Floris, no? La striscia quotidiana. La striscia quotidiana. Ma era già nei palinsesti, l'avevano presentato, lo avevano. Anzi, sembrava chiuso l'accordo anche di ogni giorno. E invece mancava la firmetta, amico mio, la firmetta. Poi è arrivato il signor Cairo che. Da abile, Giovanni. Da dove cazzo li prende tutti i soldi, signor Cairo? Vabbè. Chiedilo tu. No, sarebbe da chiedere, ma lo dico. Dalla pubblicità. Ma lo dico con mica perché voglio. Ma evidentemente ha fatto uno studio di mercato, è andato, siccome lui ha anche la concessionaria di pubblicità, ha detto quanto vale il signor Floris da noi? Evidentemente 4 che... milioni di euro per 3 anni, cioè la Rai gli offriva credo poco più di 600.000 l'anno. Beh, siamo quasi al raddoppio, siamo quasi al raddoppio. TG3 titoli, TG3 Rai 3, orfani di Giovanni Floris. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi e Berlusconi, il patto tiene, l'ex premier blinda Forza Italia al Senato, ma i malumori restano. Lunedì nuovo incontro tra premier e 5 Stelle, Grillo non andrà, il nostro appoggio dipende dalle proposte, per l'Italicum vogliamo le preferenze. Draghi dalla BCE 1.000 miliardi alle banche per imprese e famiglie, non ridurre gli sforzi sul debito, in arrivo il rincaro delle sigarette. Alta tensione in Israele, al TG3 della madre del ragazzo palestinese ucciso a Gerusalemme, non perdono fino a quando non avrò giustizia. L'ex presidente Sarkozy in TV si difende dalle accuse di corruzione, nulla da rimproverarmi, contro di me un accanimento giudiziario. Ucciso a Roma il broker Fanella, condannato per la maxi truffa Fastweb, considerato il cassiere del faccendiere Mokbel, fermato un presunto killer. Ai mondiali, oltre alla squadra, malissimo anche gli allenatori italiani, da Zaccheroni a Capello, che sarà addirittura processato dalla Duma e il Parlamento russo. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padana, bella e libera. Cecil Kyenge vuole Calderoli ai servizi sociali, condannato perché le ha dato dell'orango, però non in carcere, ma ai servizi sociali, a fare un lavoro di lavanderia in un centro per gli immigrati, in mensa. Calderoli condannato per questo reato, che avrebbe diffamazione aggravata per odio razziale, dove lo mandiamo? Ad assistere ad esempio agli sbarchi dei clandestini, questo potrebbe essere una bella pena. Questa sì, mi piacerebbe. In un CIE. Comunque bisogna metterlo e poi fare in modo che che faccia sul serio, cioè nel senso, cioè che lavori, che lavorare, sì. Lavorare, aiutare gli immigrati che arrivano. Servire a mensa, servire a mensa, in lavanderia. Oppure autista di autobus che portano i migranti. Non so che patente abbia, comunque non sarebbe male nemmeno il trasporto. Insomma. Il trasporto, cioè trasportare i migranti. Bellissimo. Da un centro all'altro. Bellissimo, lì alla guida del furgone. Però scusi un attimo, adesso va bene. E lì ci vuole però una patente speciale. Però scusi. Però un po' a rischio, perché bisogna mettere comunque un vetro dove è tanto avvicinarsi al guidatore. Oh, c'è anche il signor Pellegrin oggi, Pellegrin. Meno male che è tornato. La zanzara dovrebbe trasmettere non so che cosa, Pellegrin. Cosimo Cauciù, il mio amico, mi ha detto: perché non gli fai sentire, perché non fanno sentire la tua rubrica, il mai più senza, quelli della zanzara? Perché questa sarà una notizia pesante. Pensate che una migrante di colore, questa bambina, arrivo al dunque, è stata presa da questo nero, da questo uomo di colore, da questo migrante, è stata baciata e l'ha trascinata in un angolo cercando di violentarla. E sono arrivate le forze dell'ordine, lo stavano linciando. Il nero che stava stuprando una bambina bianca di 12 anni. La rubrica sugli stupri degli immigrati di Pellegrin. Beh, gli stupri non è che siano una prerogativa degli immigrati, caro Pellegrin, Io posso anche essere d'accordo su alcune cose, sull'immigrazione clandestina, eccetera, eccetera, però non è che li stupri, siano una prerogativa, anche i casi di cronaca più recenti ce lo suggeriscono, non è che siano una prerogativa degli extracomunitari, caro Pellegrin. Senza dubbi neri, pensamenti. Toscani, Grillo è alcolizzato. Non c'entra un cazzo con la Padania, comunque. Servi di Roma fuori. Grillo ogni tanto per mettere, mi sembra ubriaco, corretto, ultimamente credo sia alcolizzato. E come fa a dire, siccome Beethoven ha scritto questo, allora non si usa più perché l'ha usato qualcun altro? Ma non è possibile, finalmente viene usato bene, è un grande pezzo di musica. Vai vedere le tue braccia possenti. Oh, andiamo a Samuele Urbino, buonasera. Vai. Ma Cruciani, Angelo da Bari, il grande atterratico, sei andato leggero te. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. A te ti piace pigliare le mutandine delle ragazze negli spogliatoi poi le nusi. No, veramente non ho mai fatte queste cose. Non le ho mai fatte queste cose. No, ma te lo posso assicurare, non le ho mai fatte queste cose, te lo posso assicurare. Sì. E Parenzo invece, adesso la deve smettere con sta storia dei Rom, se li presi tanto a cuore. Ma lo sai perché Parenzo si è preso a cuore questa storia dei Rom? Perché si è innamorato di qualche bella zingarella che gli ha letto la mano, gli ha predetto il futuro e gli ha fatto diventare duro. Allora lui fa lo splendido, no? Ma lei è ossessionato da questione. Io mi batto per i diritti dei Rom, mi batto per il suo popolo. È ossessionato dal sesso. Io sono ossessionato di te, Cruciani, se te che ti fa le seghe con le mutandine usate. Ma io non ho mai fatto queste cose, non ma sono. Ma con quella sciarpa, Maremma, che ti ha dato quella ragazza di Sacile, provincia di Pordenone. Ma che c'entra quello? Mamma mia, e se secondo me te la sei annusata e ti sei fatto dei gran segoni, Cruciani, confessalo. Anche Parenzo, lui fa il più istituzionale, no? Vabbè, ma è quello, no, ogni tanto Parenzo, liberano qualcuno dai manicomi. Tu sei quello pulito, capito? Però anche te sotto nascondi qualche torva ossessione sessuale. Dici la verità, Parenzo, ti piace la zingarella, ti piace trombare la zingarella che ti ha letto la mano, ti ha predetto il futuro e te l'ha fatto diventare duro. Parenzo, ti piace? Io mi batto per i diritti dei Rom, Bravo, comunque mi piace, ma invece anche per quello, ragazzi, e che c'è di male? Cusani, se te ti piace trombare quella di Pordenone, quella di Sacile, però siccome sei talmente brutto che quella non te la darà mai, capito? Cusani, vi saluto, mischedi! Saluto! Orrore! Ronda, se va bene Ronda. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Guarda che il racconto che ti ho fatto prima sul tassista che mi ha fatto vedere questo dépliant di questo bordello in Germania, ti ho detto anche i prezzi, 50 euro per entrare, 60 per ogni mezz'ora di sesso, cioè tu vai lì, è una cosa che fa inorridire molte persone che mi scrivono adesso, che schifo, parlate di queste cose, ma è un segno invece di grandissima civiltà, di grandissima civiltà. E quelli del Parlamento Europeo, funzionari anche italiani, non solo italiani ovviamente, funzionari, anche deputati mi hanno detto che vanno lì ogni volta che vanno a Strasburgo, non perdono occasione di andare in questo posto che si chiama Lancelot, dovrebbero fare coming out, sì è vero, ogni tanto, beh ovviamente quelli che non sono sposati perché altrimenti la cosa è un po' più complicata, no? Ma guardate che lo fanno anche in Germania. No, ma soprattutto in Germania in questo caso lo fanno. Cioè, in questo caso soprattutto in Germania. Ha fatto secondo il caffè. Ma rendo, ho scritto che hai avuto tu. Adesso sono circondato, ci sono stesso su di un prato. Va bene, Luca da Cuneo, Luca. Pronto? Bami. Ragazzi. Vai, vai. Allora, io ho chiamato per fare una proposta shock sull'immigrazione, ho sentito il nuovo ex ministro che mi è molto simpatica, bravi, vorrei che... Chi ti è simpatica? Non ho capito. Sì, il Chieng, il ministro... Ah, la Chieng, sì, allora? Sì, sì. E allora per ravvivare un po' il paese avevo pensato che sarebbe interessante fare, avete usato anche prima dei termini calcistici, i play-off nella pubblica, i play-out della pubblica amministrazione. Per cui, proprio come c'è il turnover, ci sono i payout, quelli che escono bocciati, non sto qui a, non so neanche come fare per giudicarli, entrano gli extracomunitari. Pensate a fare una coda in un ufficio, adesso ti trovi la persona. No, ma non ho capito niente, Luca, a parte che si sente male, perché stasera va così, quando deve andare male, va male. Voglio sostituire e fare un cambio nella pubblica amministrazione, soprattutto nei front office. E voglio rimuovere delle persone annoiate, come giustamente. Ma chi decide? Come si fa a decidere uno è annoiato o non è annoiato? I concorsi hanno dei privilegi, quelli che noi li votiamo, quelli che vediamo davanti, possiamo dare dei pareri su come si sono comportati. Dall'altra parte vengono sostituiti da gente che arriva, chi più arriva a parità di titoli ha il diritto di venire davanti. Pensate che bello. No, Luca, non ho capito niente. Elio, provincia di Firenze, dai. Elio. Ciao. Dai, dimmi, parla. Vai. Mi senti? Sì, dimmi. Niente, volevo parlare lì della faccenda lì che lì di Renzi, che è andato lì ieri lì a Porta, che praticamente inorridisce per i bambini morti e tutto quanto, quella gente lì che muore tutti i giorni. Sì. Però scusami, tutta quella gente lì dovrebbe avere sulla coscienza lui, per il semplice fatto che se non farebbe di questa storia qua, di questo mare nostro, quella gente lì non partirebbe e non morirebbe. Porca vacca in mare. No, la gente parte lo stesso. La mia teoria è quella, non lo dico solo io, che se noi li prendiamo e li portiamo qui è evidente che c'è uno stimolo a venire, no? Ma questo mi pare là, porca vacca. Tanto, sì, ma non tanto è che è solo la colpa dei morti e di Renzi, dai, su, non dire stupidaggini. Però diciamo non colpa sua personale, di tutto quanto il sistema, che sì, insomma il sistema è sbagliato secondo me. Vabbè, Raffaele da Brindisi, dai. Parenzo, ci sei? Sei vivo? Sei morto? No, sono vivissimo, ma allucinato dal fatto che ancora c'è gente che specula sui morti. Cioè, solo là ieri è successo. Vabbè, ho capito, ma se la gente muore. Ma però non essere sempre cinico per forza. Vabbè, allora non si può parlare delle cause di questa roba qua, non si può parlare, benissimo. Ma le cause, certo, ma non si può, però questo signore che questo qui che telefona e addirittura può dire che la colpa è di Renzi, perché addirittura dice che si è commosso e che questa cosa qui non deve accadere, perché un leader politico per fortuna mostra anche un aspetto Vabbè, umano. Ma che uno che mi dice non deve accadere, ma non mi dà nulla, non mi dà e nulla. Infatti ha detto in quel discorso che tu hai fatto sentire, è molto sensato, invece io pensavo dicesse un'altra cosa, è molto sensato, perché dovuto dice infatti noi per ora, se non troviamo un'alternativa, Mare Nostrum, siccome abbiamo una responsabilità, la continuiamo a portarlo avanti come progetto, perché se non c'è un'alternativa per ridurre i morti, come l'obiettivo per fortuna di un governo umano e umanitario è questo, di persone, no? Dire fino a quando non si trova un'alternativa, noi sì che le andiamo a prendere, certo che li andiamo a prendere e li riportiamo indietro, e li riportiamo indietro. C'è un problema legato al diritto d'asilo, come sai, perché vengono da paesi. Ma chi se ne frega, a un certo punto uno prende soluzioni drastiche anche da questo punto di vista. Soluzioni drastiche, certo. Ma perché gli altri paesi le prendono e noi no? Ma perché? Piazza di Spagna. Ma che c'è? Roma, ma non dire stronzate. Dice che chi è più sfortunato è uno sfigato, ma, deve rimanere sfigato. Va bravo. È arrivato lui, quello che vuole accogliere tutti. Non voglio accogliere nessuno. Allora, la foto di questi due padri canadesi emozionati a petto nudo che stringono il bambino che è stato praticamente acquistato, si potrebbe dire così, per me va benissimo, con la fecondazione assistita, in questo caso con l'utero in affitto, provoca un commento del signor Mario Adinolfi. Il commento è questo: dispiace, ma davvero dispiace, che commentando questa foto non uno, e dico non uno, abbia avuto una parola per lo sguardo perso della madre. Effettivamente c'è anche lo sguardo della madre. E per il dolore del bimbo, che il dolore del bimbo adesso non è che si può capire, appena venuto al mondo, come sa chiunque abbia avuto figli, cerca solo il contatto con la madre, il suo seno. Cioè, dice Adinolfi che questo bambino cerca il contatto col seno della madre e ha lo sguardo disperso. In realtà adesso questo non è vero, La violenza a suon di denari commessa contro quella donna e quel bimbo è priva di alcun senso. Cioè, secondo Adinolfi, questi due signori, questi due maschi, questi due omosessuali che stringono al petto e si emozionano questo bambino che è stato praticamente adottato con l'utero in affitto, affittato da una donna, addirittura con un'ovulazione non con gli ovuli di quella donna ma degli ovuli di un'altra donna, è una cosa che provoca orrore, perché il figlio cerca la tetta della madre ed è priva di senso. Siamo all'interpretazione psicologica di Adinolfi di una foto. Raffaele Brindisi, allora Raffaele, vai. Cioè, hai capito a che cosa siamo? Vabbè, ma ho capito, ma Adinolfi la pensa così, che quella roba lì è un orrore, lascia perdere la foto, che l'utero in affitto, due gay che ottengono un figlio in questo modo sia una cosa terrificante. Cosa vuoi che ti dica io? La cosa allucinante che lui dice, che si mette a fare addirittura l'interpretazione psicologica sua, sì, ovviamente, di una foto. Cioè, da una foto deduce addirittura la sofferenza, una teoria politica. Ma lui, ormai Adinolfi ormai si è messo le stellette, fai il generale neocon dentro il Partito Democratico. Ma che dentro? Ma ormai non è manco più nel Partito Democratico. L'interpretazione di una foto, cioè io vedo una tua foto e dico che hai una faccia da carcerato, da mitomane, da pazzo erotomane, forse ci vado anche vicino, ma non è che dall'interpretazione della foto di Cruciani posso dedurre questi elementi. Sorvolo su quello che hai detto. Raffaele siamo Brindisi. Questo siamo. Uno vede la tua foto e dice questo è un erotomane, sicuro. Ripeto, Floris alla 7 per 4 milioni in 3 anni. Raffaele Brindisi. Posso? Sì, dimmi. Allora, io l'ho chiamato perché un po' di anni fa, che anno fa, quando ha cominciato a parlare del fatto delle adozioni gay, io feci un intervento al quale ero contrario alle adozioni gay e lei mi disse che anche in una famiglia normale ci potrebbero essere dei problemi perché si litigano, poi questo e quest'altro. Però il mio pensiero è che il bambino, quando vede litigare la mamma e il papà, si ricorderà che la mamma e il papà stavano litigando e non si ricorderà che i due papà o le due mamme hanno litigato. La cosa perché mi ha spinto a chiamare... No, non ho capito, Raffaele, però scusa, siccome sei in una zona dove si prende male, evidentemente, dove si sente poco, allora o ti metti fermo, bene, tranquillo, ci dici quello che vuoi dire, altrimenti chiudiamolo. Io mi sento benissimo, vabbè, non so, dimmi, dai, forza, meglio. Dimmi, ecco. Dai. E le stavo dicendo, l'intervento di ieri di quel signore mi ha dato conferma, ma mi ha dato conferma il 95% delle persone che lei ha fatto questa domanda, gli ha fatto questa domanda, e ha risposto che sono contrari alle adozioni gay. Io mi domando, anzi le domando, per quale motivo continuo sempre imperterrito a proporre questa cosa qui delle adozioni gay? Ma non è che propongo questa cosa, è l'attualità che ci porta a parlare di questa cosa qua. Oggi si parla di questa foto di questi due signori a petto nudo, di questi due omosessuali che hanno ottenuto un bambino in questo modo, e dunque ne parliamo, ma ne parliamo come potremmo parlare di qualsiasi argomento, di Floris e di altre. Non è che io ho l'ossessione di queste robe qui, penso che siano cose interessanti di cui discutere. Giorgia, comunque lei è contrario, mi sembra, no? Pronto? Lei è contrario, mi sembra di capire. Vabbè, arrivederci, va. Giorgia da Pisa, dai, Giorgia. Ciao. Dimmi. Solo una riflessione dopo la registrazione del signor Pellegrini, se non sbaglio. Lui era parecchio schifato dal fatto di questo nero che stuprava. Ma perché ha dovuto precisare che la bambina era bianca? Se fosse stata una bambina nera a essere stuprata, le brava. Sì, ma non è brava. Questo il punto, dai. Parlare degli stupri degli extracomunitari è ridicolo, perché gli stupri esistono dappertutto. Poi se ci sono stupri di massa commessi da extracomunitari, sì, ma la loro personalità, certo, questo sono d'accordo. Per cui cioè, non c'è manco bisogno di commentare queste robe qui. Cioè, Pellegrin che fa una rubrica sugli stupri degli extracomunitari, cioè, forse perde qualche numero, perché in realtà dopo un po' non c'è niente da dire, perché quando vengono commesse queste cose qui bisogna andare a guardare tra le famiglie bianche, magari anche padane, siciliane, campane, toscane. Stefano, Roma. Ciao, dimmi. Senti, ciao. Allora, senti, riguardo al discorso dei clandestini, brevemente, secondo me tutti i miliardi che si spendono per, naturalmente, interessi molto più grandi dietro, che ci sono dietro a questa cosa, se fossero spesi per aiutarli nel loro paese, istruirli e fargli le fabbriche, avrebbero risolto il problema, secondo me, in gran parte. Invece fa comodo avere questa cosa dei clandestini, perché c'è da specularci sopra. Pensa a quanti miliardi potrebbero essere investiti nel loro paese ed aiutarli a vivere nel loro paese. Non è così semplice, le migrazioni esisteranno sempre. Sì, ma non in questi numeri. Non in questi numeri. Io penso che se dovessi scegliere tra andare in un paese e poter vivere nel mio, bene, sceglierei di vivere nel mio. Poi la cosa principale, perché ho telefonato, è un appello al PD, a Matteo Renzi, a tutte le forze democratiche. Toglieteci Marino da Roma, io sono tassista, l'ho detto prima. Ma quanto tempo è? Un anno che fa il sindaco, Stefano? È un anno che fa il sindaco. È un anno, allora, è molto criticato. Ha fatto solo danni, e oltre a non fare nulla ha fatto solo danni. Aveva promesso le corsie preferenziali, 20-30 corsie, ha fatto 30 metri davanti alla Bocca della Verità. Ma tu che hai adesso, lascia perdere, perché non possiamo parlare dei problemi di Roma, ma che hai votato tu un anno fa? Io un anno fa ho votato per Alemanno. Solo aspetta, non sono di destra, non so, io sto su Twitter, sono tassista lobbista, non sono di destra, assolutamente. Alle elezioni politiche ho votato per Grillo, dopo 12 anni che non andavo più a votare per nessuno. Marino, comunque, il problema è uno: l'ultimo affronto che c'è stato fatto, Sopruso, sono tassinato, non ci fa caso. Sono fervorato, sono cacciato nero. L'ultimo Sopruso che ci ha fatto è chiuderci via dei Fori Imperiali, ai taxi. Vabbè, ma è una roba vecchia. Ascoltami, quando ci ha chiuso da una settimana. E sai chi ci passa, però? Siamo trasporto pubblico, no? A noi ci precettano, ci fanno quando scioperiamo, ci fanno il culo. Sai però chi ci continua a passare? Gli open bus, quelli aperti, due piani, ecco, che so, trasporto pubblico, eppure siccome pagano. Mi sembra che siete molto incazzati su questa cosa. Ti saluto, Stefano. Vabbè, adesso non è che possiamo parlare del Colosseo. Ciao Stefano, ciao. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara. Oh, ma vogliamo ricordare lo scazzo tra Floris, che forse è stato all'origine poi di questa rottura tra Floris e la Rai, eh? Lo scazzo Floris Renzi in un'intervista a Ballarò sui risparmi che doveva fare, poi ha fatto in realtà. Renzi ha vinto la sua partita in questo caso. Mi ha chiesto anche alla Rai di partecipare alla spending review. E che è la Rai? Non adesso può partecipare. Ci arriviamo. La Rai si deve mettere 150 milioni, mi pare. La Rai, secondo me, deve decidere che cosa fare. Ma Mediaset quanto mette? La Rai è partecipata da... Lo so che fa confusione dopo 10 anni in cui ha visto Berlusconi, ma le comunico che Mediaset appartiene a Berlusconi, la Rai appartiene allo Stato italiano. E quando capiremo che lo Stato italiano non è Berlusconi, sarà un gran giorno per lo Stato italiano e anche per il PD. Si avvicina a me piano piano, che cerca un po'. Io temo che la Rai sia un ente, sia una società che appartiene a tutti i cittadini e non ai partiti politici. E per questo motivo io ho scelto, a differenza di tutti i miei predecessori, di non mettere mai bocca in una discussione sui palinsesti, sui conduttori, sui direttori e sulle trasmissioni della Rai. Perché quando stavo dall'altra parte del tavolo e non ero al governo, io dicevo che la Rai doveva essere fuori dai partiti, che i partiti dovevano essere fuori dalla Rai. Poi talvolta si potrebbe dire anche la Rai fuori dai partiti, ma un'altra sarebbe storia. Sarebbe un piacere pure ai partiti, sì. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza, zazza, zazza, zazza. È la Abbiamo con noi Selma Dell'Olio, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Come andiamo? Moglie di Giuliano Ferrara, ma insomma. Ciao, anche... cara. Senti, Selma, ma hai sentito questa notizia clamorosa di Floris che lascia la Rai e va alla 7? Beh, la Gorsh Caviar squittisce ancora, che meraviglia, sono molto felice. Perché sei felice? Perché la Gorsh... Allora, no, sono felice perché io sposo la filosofia di Billie Holiday. Billie Holiday, chiesto conto di come si stava con i soldi senza i soldi, disse: sono stata ricca e sono stata povera. Ricca è meglio. Per cui, secondo te, Floris, che è il paladino della sinistra, alla fine ha scelto i soldi, per dirla alla romana. Beh, ha scelto... diciamo che fa parte di una nutrita schiera di gente. Posso che, subito... che fa così. Che c'è, Parenzo? Salutare. Cosa c'è? Che c'è, saluto Parenzo? L'amica, mi stanno facendo un selfie qui a me, sto parlando al telefono alla radio. Amico mio. Allora, io dico questo, appartenendo alla cosiddetta corrente della liberté, égalité e jet privé, sento anch'io di appartenere a questa splendida gauche, ritengo che non sia, siccome il denaro... Sì, però tu il jet privé non ce l'hai, tu non ce l'ho, c'ho manco la macchina io, però ne capisco la filosofia della liberté, égalité e jet privé. Cioè, siccome il denaro, e Selma dovrebbe convenire come non è lo sterco del demonio, e non si capisce perché quelli di sinistra dovrebbero mangiare pane e cipolla, cioè questo soltanto... Ho capito, però... Vogliono farlo mangiare a noi, ecco perché... Ma no, questo soltanto... Sono sempre scusami, cara, ma questo, su questo con te non posso... No, devi darmi ragione, perché non posso... L'ectoplasma di Cruciani, che appartiene alla cosiddetta politica del qualunquismo, del populismo, eccetera, sì. Non si capisce perché i populisti debbano essere ricchi e noi di sinistra dobbiamo essere con le pezze al culo. Sì, scusa, no, perché devi aggiungere, perché... scusa Parenzo, devi aggiungere libertà, égalité, fraternité e danè. Capito? Dico io. Ragazzi, però o parlate che si sente con i telefoni che si sentono, oppure è inutile, chiudiamo qua baracca e burattini. Allora, il problema è questo qua, è molto semplice. Floris è andato alla 7, primo perché aveva scazzato evidentemente con i vertici della Rai, secondo perché ha avuto quel litigio con Renzi, ma soprattutto perché cosa? 4 milioni in 3 anni, cioè raddoppia lo stipendio e va poi in una televisione che non è Berlusconi, non è Mediaset, va alla 7 a fare l'attualità. Ma è molto semplice. Il problema è che poi quando la pancia piena, fare i discorsi, cioè fare del moralismo, parlare, certo. Non è semplice poi, no? Cioè, beh, quanto ma tutti... sono sempre stati bravi a farlo, sempre. Tu dici, Ma sempre, sempre, sì, sappiamo la cosa di Depardieu che ha detto, no? Ah, Depardieu, certo, Depardieu. Che meraviglia, io sono per Depardieu. Tu sei con Depardieu, Ma perché ha avuto il coraggio di dire, io cambio paese, cambio nazionalità perché non voglio pagare le tasse, invece di evaderle come fanno tutti. Sì, sì. Ecco, per cui ha il coraggio di essersi preso. Ha preso la nazionalità russa, sì. Russa, la cittadinanza russa. Sarà il più simpatico dei russi. Ha detto anche: i registi italiani sono tutti comunisti, ma hanno ville dappertutto. Ma anche i conduttori italiani sono tutti comunisti, ma hanno ville dappertutto, sì. Secondo te? È così, perché essere di sinistra in questo paese è un'identità, non è una posizione politica, è un'identità, vuoi fare parte della gente che piace, no? Cioè di essere far parte dei salotti che contano, di avere le prebende, di avere i programmi, di avere tutto quello che si ha quando si appartiene al pensiero unico, perché appena ci vai contro te corcano. Parenzo, quindi... tu appartieni a questo pensiero unico, ma tu, eh? Ma quale pensiero? Io sono fuori da qualsiasi salotto, neanche un tinello. Ma voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Cioè, non c'è ormai, purtroppo, non c'è più alcuna egemonia culturale, ma magari ci fosse l'egemonia culturale. Ormai c'è l'egemonia culturale del qualunquismo e del populismo, di cui tu sei il più grande interprete. E peraltro, essendo il più grande interprete, guadagni anche un sacco di soldini dicendo un sacco di stronzate sugli extracomunitari. Quindi voglio dire, dico delle cose sugli extracomunitari, dici tu delle stronzate, come no, io. Dici delle cose che sono, ragazzi, che io voglio fare come si fa, come fanno gli americani con i messicani, come fanno gli spagnoli, come fanno altri, cioè durissimi contro l'immigrazione clandestina, durissimi. Le tue parole sono molto più mainstream di chi come me tenta alle volte di difendere ad esempio le questioni dei rom. Ma che mainstream, diglielo tu. Ma non è vero, non è vero. Nessuno, Parenzo, scusa, nessuno gliel'ha detto alla sinistra che non esiste più il comunismo, loro pensano che ancora ci sia e quindi fanno la moina, capito, con questa cosa. Allora piangono sul fatto che uno non paga le tasse, va via, piangono per i poveri del terzo mondo, intanto si portano a casa un bel po' di un bel malloppetto. Ma allora, tu sei con Depardieu, ma è vero che i registi italiani sono tutti comunisti, ma hanno cioè sputacchiano su Berlusconi? Credo di conoscerne due, ma non sono famosi. E chi sono? Chi sono? Uno è mi pare che sia Stefano Calvagno, un bravo regista di genere, e l'altro è Renato, oddio, adesso mi dispiace. Vabbè, sono sconosciuti questi qua. Sconosciuti, abbastanza sconosciuti. Ma chi sono questi qua che sono tutti comunisti ma hanno ville dappertutto? Cioè, i registi italiani che secondo te che appartengono a questa categoria di Depardieu? Sono tutte persone che fanno, cioè, che sappiamo chi Ciuti, sono. da Sorrentino in avanti. Ma chiunque, insomma, non lo so se hanno le ville, però stanno benone. Stanno molto bene. Vabbè, ma non è che se uno sta bene non può permettersi di criticare, per esempio, Berlusconi? No, ma si può criticare chiunque. Però non ci si può fare produrre da Berlusconi, dici tu? Cioè, non è che uno può sputacchiare su Berlusconi e poi farsi produrre film. Bertolucci così ha fatto, per esempio. Non mi ricordo qual era il film, mi pare che era dopo. Sì, ma infatti Depardieu lo disse a Bertolucci anni fa, voi registi italiani siete tutti comunisti, però avete case dappertutto. E soprattutto si è fatto produrre il film da Berlusconi quando la Rai lo ha corcato. Quindi capisci, cioè c'è anche questo, quando poi si tratta di fare le cose poi dopo tulano il naso e lo fanno, però non lo dicono, lo sappiamo noi che siamo del mestiere, quindi... Allora, però, quando qualcuno pronuncia la parola in questa trasmissione mainstream bisogna anche spiegarla, Parenzo, inutile che fai il coglione. Che cosa significa mainstream per la gente che ci sta seguendo? Le cose che vanno di moda, sono le cose che vanno forte. Sono cose che sono nella pancia. Ma non lo sa nessuno la parola mainstream, lo puoi dire. Tu sei anche razzista. Dillo a Radio Popolare, mainstream. Ma sei pure razzista perché pensi che il tuo ascoltatore, cioè il tassista, sia un coglione. Ecco la differenza tra me e te. Siccome io invece penso che il tassista, l'operaio, è una persona che comunque si informa e non è un idiota. Ma dai, ma non conoscono la parola mainstream, non tutti la conoscono. Guardate, lascia perdere che siano operai, tassisti, che siano tassisti. Ma non me ne frega niente. Aspetta che chiedo a qui degli amici. Lei sa cos'è la parola mainstream, ad esempio? Ecco, vedi, grazie, sa cos'è mainstream, ad esempio, ha detto che sa cos'è. David? David? Sì? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Allora, c'è un signore che lavora alla RAI, che fa il conduttore del TG1, che si chiama Marco Frittello, con cui ho polemizzato moltissimo nei mesi scorsi su più cose, ma chi se ne frega, il quale dice di trovare inelegante di questi tempi il fatto di rifiutare o di trovare inadeguato un contratto da 1.800.000 euro l'anno, quello che era stato proposto quello che era stato proposto prima a Floris dalla RAI. Posso dire che è una grandissima cazzata, cioè Floris fa quello che deve fare, cioè se pensa di avere un futuro professionale alla 7 e che gli offre il doppio dello stipendio, fa benissimo ad andare via. Cioè, ma qual è il problema? Non ho capito. Parenzo, che cosa vuoi dire a Selma? Che criticava invece la gauche caviar? Cioè, no, ha appartenuto alla gauche caviar, forse non caviar, ma alla gauche, sicuramente alla gauche americana, ai democratici americani straordinari. La criticavo nel merito, perché quando ha citato i registi italiani di sinistra, bravissimi peraltro, ce ne fosse uno di bravo di destra, c'è Renzo Martinelli che mi viene in mente come regista, che non è che può essere ascritto alla cultura di destra, ma Renzo Martinelli ha fatto il film sulla Lega, ad esempio, ha fatto il bellissimo Porzius. Vabbè, sull'episodio di bisogna sapere le cose, perché tu non sai il caso. Ma il problema, quindi... scusate, posso dire una cosa, Parenzo? Posso dire una cosa? Il problema è questo, non è che gli altri non devono avere i soldi, la questione è che la sinistra tende a tirare i sassi da case di vetro, tutto qua. I sassi da case di vetro? Cioè, vuol dire? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, scagliano le pietre moralistiche e abitano case di vetro. Selma, ma i grandi registi americani, tolto Mel Gibson che ha fatto quella porcheria di Passion of Christ, ma tutti gli stupendo, altri sono tutti di sì, per me è una porcheria assoluta, ma non dal punto di vista del messaggio, non della ma allora qual è il punto? Non ho capito. Porcheria dal punto di vista di come ha messo in scena quella la passione, secondo me. Dal punto di vista cinematografico stupendo, bellissimo, grandi, veramente ma io non ho capito, cioè, che cos'è che non ti sta bene di questa cosa di voglio Floris. Voglio dire che no, su Floris è fatto benissimo, gli è andato più grano, ottimo, potrà mangiare più caviale, ma io sono solo felice per lui, ma dopodiché si continuerà, ma poi non è il problema di sei di sinistra, è bene se fa bene il suo lavoro oppure no. Secondo me evidentemente il signor Urbano ha valutato fatto che il signor Floris fa bene il suo lavoro e gli porta ascolto e soldini e quindi lo ha preso. Cosa c'entra che è di sinistra, di destra, di centro, di su, di giù? Tu fai bene il tuo lavoro, sei un populista, sul populismo hai costruito la tua fortuna. No, e basta con questo populismo, ma non dire stronzate, basta con questa storia, ma falla finire di dire cazzate, la finisci di dire cazzate, su dai, ma smettila che stai qui con me a fare questa trasmissione, imbecille, basta con queste puttanate, ma che fai un'altra cosa, ma smettila con queste buffonate, ma quale altro ruolo, ma non dire minchiate, basta con questa storia qua, dici un sacco di cazzate, io mi ricavo un ruolo, ma che ricavi un ruolo, ma sei partecipe di tutte le cose che succedono qui, sei partecipe al 100%, non dire stronzate, ma dai, su, smettila, mandatemi la musica, se no mi incazzo, mandatemi la musica, ma smettila, basta con questa buffonata, basta con questa buffonata, su, dai. Populista o questa stronzata che dici, dico delle cose che penso e basta, lascia perdere queste categorie, il populismo, il tribuno, queste minchiate, dico quello che penso e basta, se dico che bisogna affrontare duramente l'immigrazione clandestina che è populismo o realismo, non dire minchiate, populismo, basta che uno dice populismo e se la cava così. L'arpa. Ceausescu, Ceausescu. Una cosa fastidiosissima questa cosa qua, guarda, fastidiosissima. Davvero così? Ma falla finita, ma non dire stronzate, riduci le idee a populismo, populismo, semplicemente perché dico che fanno bene in America, che fanno bene in Spagna, che fanno bene in altri paesi ad affrontare duramente, anche sparando in alcuni casi, l'immigrazione clandestina. Non mi vergogno di dirlo. Qual è il problema? Non è populismo, non è populismo. Ma qua, Selma, aiutami tu, è populismo questo? Devo dire che questo è la grande malattia della sinistra, come c'è uno che la pensa diversamente da loro, in genere dicono fascista, quindi già populista direi che è un progresso, capisci? C'è il modo di azzittire quelli che la pensano diversamente e di dirgli che sono dei fascisti. Sì, questo è sempre, sì, certo. Ecco, adesso populista, ma è la stessa, quindi diciamo festeggiamo. Ma poi scusami tanto, io la penso in questo modo sull'immigrazione clandestina e non è che la penso in questo modo sul decoro che ci deve essere nelle città. Cioè io penso che nelle città ci voglia grande decoro e grande pulizia. Certo, e grande pulizia, tutto. Presidio delle città, presidio per il decoro e per la pulizia. Non voglio vedere i barboni non fuori presi e bruciati vivi, voglio vedere i barboni dormire sui letti, non pisciare per strada, è ovvio che non si può fare tutto. Questo è populismo, che cos'è? Poi io per esempio la penso sul matrimonio omosessuale, sull'adozione, penso che bisogna avere il matrimonio sessuale e l'adozione. Che cos'è? Populismo questo qua? Che cos'è? Populismo? No! Cioè è quello che penso e basta, è quello che penso, basta con queste categorie ridicole, dietro cui ti copri, mi ritaglio io uno spazio, ma che cazzo ti ritagli? Sei partecipe di ogni cosa che succede qua. Alcuni, io dico che su alcuni e basta, no, basta con questa storia. Spazio in cui ti tilli lo spirito più ma non ti tillo niente, dico quello che penso, non hai capito? Dico quello che penso, smettila con questa storia. Al contrario, no, ma sì, vabbè, ancora peggio. Perché se almeno uno lo facesse per soldi, dice cazzo, beh, almeno lo fa per soldi. Ma smettila, ancora peggio. Se uno lo pensa, davvero secondo me è peggio. Ma cosa peggio? Cosa peggio? Cosa? Io le cose che ma tu non sai, ma non sai manco, non sai che dici semplicemente sì, facciamo bene a prenderli in alto mare e portarli qui. Sai dire solo questo. Poi se devi trovare una soluzione definitiva che abbia nulla è definitivo, è ovvio, perché ci saranno sempre le migrazioni, non lo sai nemmeno tu. Sì, l'Europa, ripeti le cose che dice la sinistra italiana da 150.000 anni, cioè dire banalità di fronte a queste cose, banalità secondo me. Ripeti le stesse cose tu, non c'è niente da fare. Ma io... siete una bella coppia comica là, eh? Senti, sì, oggi no, un po' meno. Senti, Selma, ma tutti sono diventati a favore delle coppie gay ormai, eh? Beh, il pensiero unico ha vinto su questo, non c'è niente da fare. Lì se dici una parola, se hai un'opinione diversa, sei subito omofobo, fascista, populista, non si sa. Insomma, sei fuori dalla civiltà. Ma tu sei contro il matrimonio, come tuo marito? Non è che sono contro. Io adoro quello che ha detto Philip Roth, il grande scrittore. Che Philip ha detto? Roth. Ha detto che gli omosessuali vogliono fare le due cose che lui ha sempre detestato, sposarsi e andare sotto le armi. e anche fare figli, però. Hai visto questa foto di oggi? Ma non possono fare figli, possono far fare nel ventre di qualcun altro, ma non li fanno loro. Ma ti fa orrore questa cosa qua, per esempio? Abbastanza, yes. Cioè, io ti fa orrore, voglio, per esempio, l'utero in affitto? La certezza, io penso che i bambini abbiano diritto alla certezza della paternità e della maternità. È una cosa che, cioè, io vedo in futuro delle cose tremende, di capire di chi è il figlio. Quando uno, perché due maschi non possono fare, un maschio può fare un figlio con una surrogata. Dopodiché l'altro lo adotta, dopodiché si lasciano, di chi è il figlio? Vabbè, ma è sempre loro, cioè se lo adottano è sempre loro. No, ma quando si lasciano e poi dopo, ma la certezza di chi è il figlio, c'è una madre che non esiste più perché è una surrogata, marito e marito che si lasciano, uno è il padre naturale, l'altro lo adotta, c'è un casino. È un casino, però. Ho capito, sarà un casino, ma l'importante non è come cresce una persona. Se uno cresce con l'affetto, se uno cresce, Selmo, pure tu mi pare. Va bene. È un disordine, a me pare. Ma perché un disordine? Sociale. Perché un disordine? Però va benissimo, no, ma tanto hanno vinto. Io non è che protesto. Dici che hanno vinto? Stravinto, non vinto, stravinto. Cioè, ormai stravinto è tutto. Ormai, è, ormai non c'è più niente da fare, tu dici. No, andrà sempre più di più, sempre di più così, sempre di più così, affittando uteri, lasciando, cioè comprando gli uteri delle donne che hanno bisogno di soldi, che si vendono, ed è una cosa tremenda, li riempiono di ormoni, fa malissimo, non studiano l'effetto di questi bombardamenti di ormoni sul corpo femminile di chi vuol fare un figlio per un altro, è una cosa mostruosa, secondo me, dal punto di vista medico, prima di tutto. Prima di tutto, quindi io difendo il corpo delle donne, questa a me mi sembra una cosa. Ma invece la legalizzazione della prostituzione, io prima ho detto le case chiuse. Sì, no, le case sono per la decriminalizzazione. Ma nemmeno. Ma le donne di Parenzo, ma ormai è tutto finito qua. Cioè le donne, no, le donne che distinguiamo. Allora, sulla cosa, io te l'ho detto, su questa cosa qui dell'utero in affitto, e addirittura due omosessuali che decidono di prendere lo sperma di un altro loro, prendere una donna, questo lo trovo, questo è, per me è bestiale, questo sicuramente non bestiale, è bestiale, che vuol dire bestiale? Beh, è un capriccio, questo sicuramente. Cioè, è un capriccio, sei d'accordo con Anselma, con Sgarbi, che dicono che è un capriccio l'utero in affitto, prendere lo sperma di uno dei due gay e inseminarlo, no, diciamo, dentro una donna, è un capriccio. Aspetta un attimo, assolutamente, ma ti spiego, vado ancora giù. Ma cioè, voi di sinistra siete diventati conservatori, Selma e Parenzo, siete diventati conservatori, L'adozione, allora, distinguiamo le due cose. Sull'adozione agli omosessuali ti ho sempre detto che ho dei dubbi, non è che sono contrario, non mi sono fatto un'opinione precisa e ho dei dubbi, però come su tutto peraltro. Su altre cose, come sai, non ho nessun dubbio. Su questo ho dei dubbi, mentre sono assolutamente convinto che sia un grande capriccio quello di una coppia di persone, quello che ho detto prima, sì. Che l'adozione è un conto, ma addirittura fare l'utero in affitto, beh, quella è una cosa da Frankenstein proprio. Cioè l'utero in affitto è da Frankenstein. Dillo al senatore, lo giudice. Selma, sai che c'è un senatore, adesso nei prossimi giorni magari lo invitiamo e glielo dici. Cioè lei è Frankenstein, devi dire, lei è Frankenstein, perché è andato in Canada, Selma, è andato in Canada con lo sperma del suo compagno, hanno inseminato una donna, una donna, pagandola probabilmente, perché questi servizi si pagano, non mi pare una cosa così folle, pagano, secondo te è folle, secondo me non è folle, hanno preso un figlio e l'hanno portato in Italia e lo hanno riconosciuto, secondo Parenzo questa roba è da Frankenstein, secondo te? Beh, io non sono per l'utero in affitto, io penso che sia la corruzione di una donna, perché lo fanno per soldi, nessuno lo fa. Ma tante cose fanno per soldi, ma magari se uno vuole affittare il proprio utero per fare... Io sono libertaria, per cui facciano quello che vogliono, io dico la mia opinione sul fatto, non che lo voglio impedire, dico solo che non mi piace, sì, penso che sia una cosa brutta. Se dici che non ti piace, ti significa che lo vuoi proibire in pratica. Io non vorrei proibire quasi niente, perché sono libertaria, veramente, voglio che ognuno faccia quello che vuole, basta che non mi rompa i coglioni a me e io non gli rompo a loro, io veramente voglio che tutti facciano quello che vogliono, questo è vero, siccome siamo qui per dire un'opinione, così diciamo la nostra opinione. Posso dire che ammiro molto Giovanardi? Addirittura. Perché col pensiero unico, uno che ha il coraggio di dire delle cose così impopolari, così contro la correttezza politica, così contro il conformismo, è solo da ammirare il coraggio. Sì, sì. Ammiro proprio. Cioè sei giovanardiana, te. Beh, sì, Io vorrei avere il suo coraggio. E invece quelli che vanno a fare i gay pride, quelli che lanciano le freccette sui giovanotti, quelli che si vanno col culo di fuori durante il gay pride, come sono? Beh, ti fanno schifo pure a te. Folklore. No, folklore. Molto folklore. Inutile folklore. Cioè Luxuria lo trovi una cosa di folcloristica. Folcloristica, certo. Molto folklore. Ma quello è, no? Cioè campa con l'essere travestito, cioè travestita, campa con l'essere sì, trans. Come il carnevale di Rio. Cioè fanno il travestito, ma così si travestono, si divertono, ma poi vorrei capire questo, ma sono tutti così o ci sono anche quelli, diciamo, normali? Ma no, ma quelli come quelli normali, certo che ci stanno, ma alcuni mettono in mostra la loro omosessualità, la propria diversità, non vedo qual è il problema, non è che uno esce per strada normalmente e trova la gente con le piume e con i piselli di fuori, dai, su, le manifestazioni in questo caso sono anche di questo tipo, vabbè, Selma, ma sì, è Carnevale di Rio, un divertimento, va benissimo. Ciao, ti abbraccio, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ormai è tutto degradato. Beh, danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Perché non si adegua un po'? L'Europa, è nel cuore dell'Europa, Strasburgo! Sembra un centro commerciale qua dentro, un centro commerciale gigante. Questo è il Parlamento europeo. Mamma, è un centro commerciale! Ma fa schifo! Cioè, è tutta una cosa così gigante. Se la burocrazia a Roma è 100, qua è 1000. Ma rappresentate 500 milioni di cittadini, 27 paesi. Ma di che ma parla? No, ma qui veramente, se Roma è la lumaca. Lei dovrebbe palpitare questo... il cuore per l'emozione. Ma io sono qua a combattere per difendere ma combattere la gente. Cosa combattere? Gli stronzi come te. Io non voglio morire islamico, hai capito, caro Parenzo? Io dico basta, che in Europa. Basta dire stupidaggini. In Europa le radici cristiane, questo lo dovrebbe dire il Santo Padre. Il Santo Padre non ho pagato, che invece ha reati io di immigrazione clandestina. Non voglio pagare 12.000 euro il biglietto di questo circo. Non l'ho pagato. Sì. Non voglio pagarti. L'immigrazione clandestina, reato, c'era la città del Vaticano. Se li portasse nella Cappella Sistina, insieme alla Boldrini. Il Papa dovrebbe portare. Il Papa c'ha reato di immigrazione clandestina. Ma tu, ma quanta segatura hai in quel cervello? E tu invece? Quanta segatura hai? Tu invece c'hai? Guarda, io vedo dall'altra perché parte. Perché devo spendere 12.000 euro? Sei gordo per come una campana. Quanto mi... A casa. Che sono, ma i giornalisti stranieri, Parenzo, che oggi mi hanno fermato e excuse me, Mr. Parenzo, do you know Mr. Bonanno Conard? It's a man with... Ma è conosciuto anche all'estero. It's a man with a burqa. Detto, yes, it was a member of Italian Parliament, now he's here. Tutto imbarazzato ero. Oh, it's really disgusting. Dico, yes, it's disgusting, of course. Parenzo, ci siamo fatti riconoscere. Parenzo, ci fai pigliare per il culo. Se... siamo due giorni che ma siamo qui un po' di tutti per il culo, bravo. Ma, ma pensa al PD, ma pensa alle televisioni, ma vai, ma ti prendo calci nel sedere, la gente non può vedere, ma ti prendo calci nel sedere, le televisioni di tutto il mondo, ma per amor del cielo, ma ti do un calcio nel culo, vergognati. Allora, Buonanno a un certo punto però ha detto una frase sugli omosessuali, sul bacio, cioè gli fa schifo, gli dà fastidio e non si dovrebbero baciare in pubblico secondo lui. Mi pare, se non ricordo male, che la Pascale invece abbia detto sì, che non è così può... contraria al fatto che due omosessuali possono adottare un bambino. Ok? Allora io a questa cosa sono nettamente contrario. Poi gli omosessuali mi fa letteralmente vomitare. No, ma a te pure, pure un bacio tra due omosessuali ti fa vomitare. Mi dà fastidio, molto. Mi dà fastidio. Brucio le mie cartacce intorno a un canto. Cioè, se a Borgosesi a due omosessuali si baciano. Anche sindaco. Che succede? Sindaco è strada. No, io vado là e dico scusate, forse è meglio che queste cose le fate non in un luogo pubblico. Cioè è vietato il bacio in pubblico tra omosessuali a Borgosesi. No, mi dà fastidio, non è che può essere vietato, però ci vuole anche un minimo di senso civico. Ma ho capito, ma cosa vuol dire senso civico? Due persone che si vogliono bene. Dello stesso sesso? Ma di che cosa ti fai? Cioè già non mi piace due che si baciano in maniera vistosa. Perché? Mi dà fastidio. A maggior ragione due dello stesso sesso. Anita da Roma, buonasera. Sì, buonasera, io volevo dire una sola cosa, che gli omosessuali che utilizzano le donne per l'uso per l'utero in affitto, per me sono i nuovi schiavisti, cioè trasformano una persona in una macchina di carne che gli deve produrre il bambolotto per i loro capricci. E ho una grande pena per queste donne che non hanno la cognizione della propria dignità, probabilmente perché sono molto povere. Non credo che una lady dell'upper class darebbe il proprio udere a un qualsiasi frocio per fargli fare un figlio. Ho molta pena e ho molta nostalgia del femminismo, ma in quei paesi... Com'è che li ha chiamati, vivono... scusa, a qualunque frocio? Che cos'è che ha detto? A qualunque frocio che passa? Ma sessuale, la stessa cosa, io sono romana, non è una questione... Cioè lei li considera anche un po' malati magari, no? Disturbati? No, assolutamente no. Io dico questo, che utilizzare il corpo di una donna, che è una persona, per farla diventare una macchina di carne che produce un bambino che dopo gli viene tolto, il corpo della donna quando è incinta e quando partorisce ha delle trasformazioni anche affettive. In questo caso è come una zucca che si riempie e dopo si svuota. È veramente... Parenzo, sei d'accordo con questa signora tu? Cioè, ti faccio notare. No, ma va benissimo, per carità, ma sono opinioni legittime, no, per carità. Io non userei, No, tu sei d'accordo. Ma sei d'accordo con questa signora? Mi pare evidente. Dici le stesse cose. Ma ti dico di più, ma è inutile che ti galvanizzi. Ma non mi sto galvanizzando. Ti puoi eccitare, perché dirò ancora qualcosa di più. Più ci penso, anche. Sì. Più penso, più veramente lei ha usato il termine nuove schiave. Effettivamente è così. Cioè, nuove schiave, bene. Allora, Parenzo sostiene che le persone che danno l'utero in affitto sono le nuove schiave. Sembra l'analisi di questa signora è vero, non è che... No, ma io ti voglio far notare che sei d'accordo con Giovanardi, ma va benissimo, per carità, ma io, per esempio, alcune volte sono d'accordo con Giovanardi. Parenzo d'accordo con Giovanardi. Ma non sono una persona che vive di ideologie, dipingi come uno trinaricista, non lo sono assolutamente. Veramente sei tu che mi hai attribuito un epiteto prima, no? Io non ho nessuna ideologia, certo, sono culturalmente di sinistra, su questo non c'è ombra di dubbio, sì. Ma infatti proprio perché credo di essere così vagamente di sinistra, sì. Credo che bisogna combattere questo sfruttamento di donne. Penso questo, penso che queste donne siano sfruttate, perché è bello quello che lei ha detto, una donna dell'Upper East Side, non credo che magari forse per provare ma no, esiste la povertà, ma che è cosa bravo, strana, la differenza tra me che e te, cosa tra strana, ti... esiste la povertà e dunque... La differenza è che uno di sinistra prova a dire di ridurre la povertà, sì. Questa è la differenza fondamentale. Sì. Invece gli altri sono cattivi, altri pensano, tu non so cosa sei, perché tu questo dici me ne fotto. Meno male, quindi, aspetta un attimo. Dicendo me ne foto, liquidi la questione. Fermo un attimo, fermi tutti. Squilla il telefono della zanzara. Non risponde. Non me moleste moschi. Allora Anita, cosa voleva dire? Ha visto che ha trovato un paladino in Parenzo, non se l'aspettava, eh? Non moleste moschi. Non c'è più. Tiziano Bergamo. Buonasera Cruciani. Sì. Quasi mi dispiace essere un po' d'accordo con Parenzo, ma io telefonavo però per quella questione dell'utero in affitto. Telefonavo però per quella frase che ha detto a proposito della grande civiltà, perché in Germania ognuno si può prospettire come vuole. Sono abbastanza d'accordo con lei, spero solo che questa cosa qua non capiti a mia figlia. Cioè cosa? E che si prostituisca. E vabbè, d'accordo, ma tutti quanti sperano che una persona non si prostituisca, no? Cioè però lei a un certo punto ha detto che è una prova di grande libertà. No, ma non ho detto una prova di grande libertà, l'esistenza delle cose, l'esistenza l'esistenza delle case chiuse, della legalizzazione della prostituzione, i bordelli, non che la libertà di prostituirsi. Tra l'altro, io davvero penso che sia un lavoro come un altro, È ovvio che è un lavoro particolare, per cui non è che uno nella vita dice che cosa vuoi fare della vita, mi voglio prostituire, non è che lo puoi decidere prima. Capita nella vita magari di trovarsi in situazioni per cui uno si prostituisce. Io non sto parlando della schiavitù. È più intelligente, deve andare una mano. alle persone che sono costrette a prostituirsi. Sì, ma quello può sempre, può sempre accadere. Quello può sempre accadere. Ma se uno dice che è una grande libertà, però la prostituzione, ma la prostituzione esisterà sempre, è sempre esistita ed esisterà sempre. Questa pretesa che anche Parenzo, che a un certo punto il mondo possa, si possa rendere perfetto. No, il mondo si può rendere perfetto, cioè no, non voglio renderlo perfetto, non esistono lei. Più però non esistono più i poveri, non esistono più le prostitute qua. È un mondo perfetto in cui tutti Cruciali, un giudizio su una cosa, giusto? Ma sì, ma lei lo può dare o no? Bisogna darla. Dopodiché e che giudizio dice... che giudizio dà lei della prostituzione? Che non è una cosa, come dire, che la frase giusta è lede la dignità della donna. No, ma lei della dignità della donna. Cioè io spero solo che le mie due. Ma la dignità della donna la decide la donna stella, la decide la singola donna, non la decide lei, non la decide. E vabbè, quello anch'io. Dopodiché la dignità di una persona. La dignità di una persona non la decide lei, la dignità di una persona non la decide lei, Tiziano, la dignità di una persona. È la singola persona che deve dire mi sento degno. Io infatti non la voglio decidere, Io dico solo che questa cosa qua che mi fa sempre una grande tristezza, perché quando uno vende il proprio corpo, secondo me questa cosa qua è una cosa triste. Spero solo che non capiti mai ai miei figli. Vabbè, però se lei ci chiama per dirci sta cazzata che non vuole che le sue figlie facciano le prostitute e le puttane, non mi pare. No, io per farle capire che è facile fare il frocio col culo degli altri, cioè dire che la prostituzione è la cosa che bellissima. Ma non ho detto questo, non ho mai detto che è bellissima. Tutto bello tranquillo. Certo, è una ma il sistema che esiste in alcuni paesi mi piace. Dopodiché la prostituzione, ognuno ha il giudizio, dal giudizio che dà sulla prostituzione, e soprattutto quando uno è libero, la dignità non è che la decide lei o la decido io, la decide la singola persona. Se una prostituta, all'interno di un bordello si sente degna, non si sente, come dire, non si sente vituperata. Io non ci credo neanche. Ma io non lo so. Che una donna si senta contenta di darla via al primo che capita per soldi. Non ci credo. Io non ho detto che è così sempre, ho detto che ci sono testimonianze di persone, ce ne sono moltissime, che guadagnano per un periodo un sacco di soldi, che non provano dopo un po' non provano nemmeno diventa un lavoro come un altro. Cruciani, al male uno si abitua. Ma d'accordo. Insomma, lei non fa il prete però, cioè... Ma che cazzo me ne frega dei preti, Cruciani? Sto parlando di questa cosa qua, uno si abitua a una cosa brutta. Dopodiché quella resta una cosa brutta, non è che a dire allora legalizziamo tutto, allora va bene. Ma solo non ho detto che... Vabbè, ma perché io rispetto la sua idea, ma non è molto diversa dalla mia, guardi, Tiziano. No, non è molto diversa. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara di Paolo Torino, Paolo. Ciao, dimmi. Sì, ma giusto una cosa tecnica, veloce. Mi fate incazzare perché delle volte sto seguendo i vostri dibattiti, mi sparisce il segnale e non vi sento più. Vedete, rimediamo. Poi niente, volevo dirti, ma insomma, su sta cosa degli omosessuali, ma perché bisogna fare uno scontro di ideologie, di civiltà? Ognuno faccia quello che cacchio gli pare nel segreto della sua stanza da letto, dove? Poi per il resto chi se ne frega se uno è omosessuale o no, no? Perché bisogna spettacolarizzare tutto? Questa non la capisco. Ma chi è che spettacolarizza, scusa? No, tipo gay pride. Cioè c'è questa ostentazione di una cosa che poi rimane una sfera privata, no? Al di là di tutto. Vabbè, ma adesso ma è una vita che si parla di matrimoni, adozioni, uteri in affitto, il modo in cui fare figli, eccetera. Adesso lei ci viene a dire ognuno fa il cazzo che vuole dentro il letto. Sì, beh, certo, questo non c'è dubbio. Nessuno. Cioè, a parte alcuni paesi in cui le persone vengono lapidate per il solo fatto di fare atti omosessuali. Del resto, però, si discute di queste cose qui. Si discute finché non si arriva a delle soluzioni. Punto e basta. Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Allora, Maurizio Gasparri ha appena detto, a proposito della vicenda Floris, il vicepresidente del Senato, uno che si è occupato per tanti anni di comunicazione, come sai, Parenzo, come ministro delle... di quegli affari lì, ha detto che, che c'è stato un editto di Renzi nei confronti di Floris. Un editto. Mi pare una follia, francamente. Un editto di Renzi. Cioè, siccome fa domande scomode, siccome Floris ha fatto domande scomode sui risparmi della Rai, Renzi si è imbestialito, eccetera. A me pare sinceramente che ci sia una cosa, cioè l'accordo con la Rai era stato raggiunto praticamente da parte di Floris, poi quelli che ci seguono sti cazzi di queste cose, dei milionari, di quelli che guadagnano un sacco di soldi, ma non perché sia sbagliato, perché poi diamo troppa importanza a queste cose. Beh no, però la televisione la guardano tutti, sì sì sì, dunque interessano gli scacchieri. Però non c'è nessun editto, la Rai ha un la domanda vera da farsi, no, ma avevano raggiunto un accordo di l'accordo economico era stato praticamente raggiunto, l'hai detto pure te prima, cioè... No, ti ho detto che avevo letto, no, ti ho detto un'altra cosa, che da quanto sapevo io che era quello che è uscito sui giornali. Ma dove sei, scusa che non ti sento, dove sei, scusa? No, adesso senti, sono in macchina, sono la Maria Giulia, vuoi sentire la Maria Giulia un attimo? Sono la Maria Giulia. Ma c'è un momento in cui stai fermo oppure no oggi? Cioè c'è un momento in cui stai fermo oppure no? Oppure devi stare prima in macchina, poi lì, eccetera. Non c'è niente da fare. No, allora, comunque, un milione, 1,8 milioni. La Rai poteva sopportare questa cifra? Ma no, questa cifra di 4 milioni in 3 anni, evidentemente no. O comunque non era nelle intenzioni. Della discussione. Vabbè. Giuseppe Vicenza. Buonasera. Dimmi. Io prima ho scritto un messaggio e mi chiedevo se nella vostra paga è compreso anche il discorso dei proci. Quindi penso che voi abbiate qualche inclinazione del genere, perché per continuare a parlarne o la vostra paga lo prevede oppure... Allora, caro amico mio, paghetta, oggi paghetta, Repubblica pagina oppure... 9, paghetta un cazzo, Repubblica pagina 9, svolta di Alfano sui gay, sia alle unioni civili ma più aiuti alle famiglie. In realtà non c'è nessuna svolta sulle unioni civili, perché dice no all'adozione, dice no alla reversibilità della pensione, dice no al matrimonio, cioè per cui è in realtà un titolo finto di un intervista in cui non c'è nulla di nuovo. Sì, c'è una leggera apertura alle unioni civili, insomma Alfano si accoda un po' a quello che diceva Renzi con alcuni paletti. Non è che ne parliamo noi, cioè, ne parla il mondo, ne parla la società, ne parlano i media, punto, basta. Se lei scoccia quando... Io condivido esattamente quello che ha detto Sgarbi prima, condivido, sono d'accordo sul che bisogna regolare, perché ad esempio nel rapporto tra Dalla e il suo amico, il fatto che non fosse disciplinata il rapporto probabilmente ha penalizzato anche nella successione ereditaria l'amichetto di Dalla. E quindi da questo punto di vista dico, però sulla Froci lei prima, scusi, io sono autorizzato, perché li ha chiamati Froci? Ma perché a lei fanno un po' schifo, la verità, Giuseppe, dimmi la verità, le fanno un po' schifo. Ma io sì, ma secondo me fanno schifo anche a lei. Io voglio vedere se uno le mette la mano nel culo, oppure se qualcuno tenta di stradilibonarla o cosa. Beh, se qualcuno tenta di scusi Giuseppe, non è che siano una cosa, le fa schifo, non mi dica al contrario di quello che pensa lei. Se vede sua figlia che in pubblico si limona con un'altra ragazza, lei è estremamente contento, no? Guardi, dipende, scusi un attimo Giuseppe, se mia figlia è contenta a limonare quando sarà con un'altra donna, se è così, ma che qual è il problema, scusi, non ho capito. Poi non è che lei deve immaginare che esiste una sorta di assalto omosessuale con gente che ti mette la mano sul culo, gente che ti mette la mano sul pacco, gente che tenta di limonarti, come, cioè non è così, non funziona così, nemmeno tra uomo e donna funziona così. Siamo tutti sicuri e convinti che voi parlate così, razzolate bene, cioè parlate bene e razzolate male, perché siete in trasmissione, quindi dovete sostenere. E invece che abbiamo, non ho capito, invece però che cosa? Della vita privata. Cioè lei fa orrore, a lei fa orrore. No, i Froci fanno orrore. Non mi fa orrore. Ma come no? L'ha detto prima, le fanno orrore. mi fanno schifo due baschi che si dimorano in piazza, cioè questo assolutamente non mi piace, non è una visione dell'amore che io penso. Poi un'altra cosa che volevo dire era su Bitonci, e condivido quello che lei, le critiche prima ha fatto a Parenzo, che si può rassegnare Parenzo. Guardi, Padova probabilmente, contrariamente a Treviso, ha bisogno di qualcuno che faccia il lavoro sporco e che pulisca finalmente la città. A Treviso abbiamo avuto la Lega che ha messo a posto e adesso sono passati pochi giorni, vedremo se veramente sarà messa a posto, se c'è qualcosa da mettere a posto, perché non è che sia, come dire, un po' stribolo, cioè non è che Padova sia un po' stribolo, un postaccio dove la gente, dove c'è gente che piscia dappertutto, torme di immigrati che occupano le strade, immondizie in genere, non è così, cioè non è un disastro colossale. Poi certo, siccome quello ha perso e l'altro ha vinto, qualche motivo ci sarà. Antonio Brindisi. Sì, buonasera. Dimmi. Buonasera, signor Cruciani e Parenzo. Sì, Parenzo ormai è andato, si è assentato, è andato ormai. Ah, bene. Sì, fa il cazzo che vuole, sta parlando, discutendo. Che volevi dire, Antonio? Sì, no, volevo dire a Parenzo che deve fare pace col cervello, perché va in contraddizione con se stesso. Mi dispiace che adesso non c'è per replicare. No, certo che ci sono. Sta ascoltando, facendo i cazzi suoi, tanto è normale. Ma sai, io sto ascoltando, ma non ti parlo sopra, perché sennò mi rompi i coglioni ancora con sta storia. Oh. Vai, Antonio, dai. Ho sentito tutto quello che ha detto quel decorticato prima, che parlava di pulire la città, parlando di persone, pulire la città riferito a delle persone, ma siamo ormai alla follia più totale, guarda. Vai, Antonio. Ma sono contento di essere diverso da lui, uno che usa il termine pulire la città riferito a delle persone, ma è una roba agghiacciante. Vai, Antonio. Mi piace così. Io però, Parenzo, volevo dirti, scusa, che uno affitti l'utero o fa prostituirsi o cambia sesso, si riempie di tatuaggi, ma non è libertà della persona quella, perché non è chiaro. Libertà di una persona di scegliere quello che vuole fare. Della... Posso, ma io non ho detto di vietà, attento, non mi sono fatto, non credo che sia, forse sì, in questo caso andrebbe anche vietato, probabilmente. Dopodiché la libertà della persona, anche di queste donne, di prestare l'utero, è chiaro, c'è, in alcuni paesi c'è, infatti lo fanno, spero che in Italia non si faccia. Dopodiché, perché penso che sia un modo di ridurre in schiavitù la donna. Vabbè, Antonio, deve fare pace col cervello? Scusa, Antonio. Il concetto è sempre lo stesso. Fino a quando ci sono i soldi che comandano, si fa sempre tutto. Perché, scusa, anche un politico che va a schiacciare solo il pulsantino per sedersi là e basta, non fa niente se è prostituito. È la stessa cosa. Cioè, sono i soldi che contano e che fanno decidere a una persona quello che fare della propria vita. Certo, se uno vuole, come dire, affittare il proprio utero, non si capisce perché non lo possa fare. La cosa che mi orribilisce invece è quella di credersi papà e mamma, quando invece, cioè, uno solo è il papà e la mamma è non so chi, e l'altro è un illuso, è un cretino, scusa. Perché o te l'adotti il figlio, e ce ne sono tanti in giro che potrebbero essere adottati, e ne varrebbe veramente la pena. Ma tu che vai a fare lo spermatozoo del tuo compagno, tu non sei nessuno se non un adottato, cioè un padre putativo, qualcosa del genere, e ti illudi di essere papà per... Cioè, ma non facciamo queste confusioni genetiche, insomma, è solo una confusione genetica. Ma quale confusione? Dov'è sta confusione? Scusa, spiegami, dov'è la confusione? È perché io ho sentito che prendono l'ovulo da una donna, lo fecondano con uno dei due maschi, per poi impiantarlo in un'altra donna. Cioè, sì. Uno non ha manco più le origini, le radici, chi siamo, chi non siamo, cioè. Poi lasciamo perdere i dettagli, che alcuni possono essere ammessi, altri meno. Cioè, il principio generale, questa storia dell'utero in affitto vi fa schifo, vi piace, pensate che sia una cosa che si dovrebbe introdurre anche in Italia? Esiste, succede in altri paesi, questi vanno, pagano. Stefano, Bergamo. Salve. Prima ho sentito nella trasmissione che si diceva che ognuno può fare quello che vuole nel proprio letto, tranne in alcuni stati, e volevo precisare due cose. Per esempio, nel distretto di Columbia, dove sta Washington, è la masturbazione reato, e in un paese, in uno stato del sud degli Stati Uniti, il sesso orale può portarti in galera per parecchi anni, sì. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, non per non dare sempre addosso agli islamici, anche se non sono islamico, la seconda cosa è che sono preoccupato per sua figlia. Perché? Perché con la sua filosofia del chi se ne frega, e quando ci sono soldi va bene, credo che sia a forte rischio di... Io non ho detto chi se ne frega, non ho detto chi se ne frega. No, lei lo dice sempre. Di no, ma non ho detto chi se ne frega, dico semplicemente che bisogna essere coerenti, non è che si può... Poi lasciamo perdere i limiti alla questa storia dell'utero in affitto, ma non si può, cioè non si può essere libertari da un certo punto di vista. Poi però quando si tratta dell'utero in affitto, beh no, perché qui c'è la donna che viene schiavizzata. Che donna schiavizzata? Una donna che per vari motivi decide di prestare il proprio utero per la nascita di un bambino, punto e basta, cioè non è che la schiavitù. Allora Stefano, non ho capito, perché dovrebbe essere a rischio prostituzione mia figlia? Scusi, che c'entra mia figlia con rischio prostituzione? Se lei a casa ragiona come in trasmissione, non so che cosa farà nel futuro sua figlia. Ma io sono estremamente tollerante, questo è il punto, sono estremamente tollerante. Sì, che sia tollerante, sì, ma la filosofia è che basta ma che c'entra? Che se ne frega di qualunque altra cosa. Ma non, a parte che non è questa. Poi guardi, in queste discussioni mia figlia non c'entra assolutamente nulla, niente, zero. Sandro da Roma. Cruciani, dimmi. Vorrei parlare con Parenzo. È qua. Parenzo. Bene, Parenzo, oggi questa sera a Tonino Cruciani gli rode tantissimo il chiccherone. Perché? Perché c'è sta Floris che si becca 4 milioni d'euro. Invece Buon Cruciani ha fatto un'apparizione in televisione, ha finito, non ci andrà più, ma oltre questo... Ma veramente ci sono tornato, a parte che ci sono tornato. A parte questo che l'Adamico si è cuccata pure, come se è stata con l'altro, lì buffo. Ma che c'entra questo? Bianco due volte. Che c'entra? No. Te la prendi con su Floris, sta a fare due coglioni. Io me la prendo, ma zero proprio. Sì. Io me la prendo. Floris, gli danno 4 milioni d'euro. Ma ha fatto benissimo, ho detto che ha fatto benissimo. Che stai dicendo? Sei impazzito? No. Quattro volte ci sei andato sopra. Quante volte? Quattro volte. Risenti la trasmissione. Ma chi? Quattro volte con suo povero Cristo De Floris. Io? Ha preso 4 milioni d'euro. Ma io ho detto che ha fatto benissimo. Hai capito male? Cioè, non hai capito niente, anzi, non è che hai capito male. Non hai capito nulla, zero. Vabbè. Non hai capito niente, non hai capito un cazzo, non hai capito niente. Rosigone. Io, Rosigone, ma figurati. Ma parla, ma poi tanto, tu mi puoi insultare tranquillamente. No, ma guarda che tu mi puoi insultare tranquillamente. Io non ti sto insultando, ti sto soltanto cioè, prima non sto rosicando proprio zero. No, ammazza, che te senti. Guarda, questa trasmissione è fatta anche per far intervenire persone come te che vogliono prendere in giro. Ma se ti senti contento così. 4 milioni a lui, niente. Lasciatelo parlare. Hai fatto, hai finito un'apparizione, via. Via. No, hai finito? Subito. No, non ho finito, però vai, continua, vai. La gente se ne accorge. Ma di che? Ma dico cosa? Perché te ci rode. Quello 4 milioni ha preso. Ma quando ti danno a te? Mai. Mi avverti quando hai finito, capito, Sandro? Com'è? No, non ho finito. È così. Bene, bravo. Senti la registrazione. Sì. Cordialità, mi raccomando. Sì. Sei forte, Sandro. Mazza quanto sei forte, oh. Ma quanto sei forte. Oh, sei intervenuto a dire che mi rode. Sei intervenuto. Mazza quanto sei contento. Ma guarda che ha fatto benissimo. Si va a confrontare col mercato nelle televisioni private. Ha fatto bene, è un grande. Ha fatto bene. Ci sono tornato tante volte su, capito? Tante volte ci si è tornato su. Ma certo, perché è un argomento della serata, semplicemente per questo, imbecille, cretino. No, certo, mazza quanto brutto. Mamma mia, come ti diverti, Sandro? Pensa un po', 4 milioni in 3 anni, poi. Parenzo, ma questo qua, tu pensa, questo Sandro, no? Non so che fa di mestiere. Ma che fa questo di mestiere? Che fa lei di mestiere, no, Sandro? Aspetta, te dico io. No, ma che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Che faccio? Sì. Facevo dirigente. Facevo dirigente bancario. Ma beato te. Allora, ha perso tempo per chiamare. Per chiamare e dire quanto ti rode che prende i soldi. Ma guarda, amico mio, io se sei, a me c'è una sola cosa che ma non senti, io ho una sola senti, cosa Parenzo, no Parenzo, Sandro no ma Parenzo sta zitto perché non c'è niente da dire. Sì, Sandro, no, il punto fondamentale è uno, e Parenzo lo sa bene. Io proprio, se c'è una cosa che non ho, è l'invidia. Guardi, è andato a parare male. Io proprio, se uno, c'ho un sacco di difetti, ma uno non ce l'ho, l'invidia. Ma dunque, silenzio, muto, torni a casa dalla mogliettina o dall'amante. Valentina da Padova. Valentina? Sì, dimmi. Pronto? Sì. Volevo solo dare una testimonianza come donna. Io lo metterei il mio utero in affitto senza sentirmi schiava di nessuno. Brava, brava Valentina. Che cosa dici? Senza sentirti schiava metteresti tranquillamente il tuo utero in affitto se avessi bisogno di farlo, oppure se ti sentiresti di farlo o no? Beh, lo farei intanto indipendentemente da chi sono i genitori. Nel senso, non mi interessa se la coppia è etero o omo. E perché lo faresti? Beh, sinceramente, perché non bisogna dirlo che lo si fa anche per i soldi? Io non muoio di fame, però ci sono tante persone che si votano al secondo lavoro o che si votano a fare tante altre cose e si schiavizzano al lavoro, perché io non posso decidere di arrotondare facendo questo? Tanto non sono cifre che ti sconvolgono la vita, sono cifre che ti possono magari permettere di migliorartela, ma non di stravolgerla. E beh, allora a maggior ragione uno non dovrebbe farlo, no? Se la cosa è così invasiva, se sono cose che non ti cambiano la vita. Vabbè. Ma... ragazzi, ne parliamo domani. Valentina, ti richiamo domani, eh. Ciao, un abbraccio. A domani 18:30, ciao. Prenda atto che ormai è tutto finito. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Radio 24, la passione si sente.